Sente? Sì? Sì? Ok. C'era un tempo lontano in cui partigiani in ogni quartiere apriva per la prima volta i suoi occhi, il lontanissimo 2008. Era un tempo complesso in cui i rigurgiti fascisti cercavano di conquistare i quartieri della nostra metropoli. Al tempo, pur essendo molto piccoli e piccole, abbiamo travolto con la nostra già fervida perseveranza antifascista il tentativo degli squadristi di prendere piede nel nostro amato quartiere gallaratese. Crescendo in un mondo sempre più intriso di ingiustizie, abbiamo sviluppato il nostro corpo collettivo attraversando tutti i quartieri della nostra città, opponendo resistenza al vuoto lasciato dalle istituzioni di variopinto colore. Nella gioia e nel dolore siamo arrivati fino a qui, i nostri primi 18 anni, la nostra maggiore età. Non è facile crescere quando il nemico cresce con te, non è facile tenere alto il vessillo, ma c'è una cosa che abbiamo ereditato da chi 80 anni fa liberò il nostro paese dal nazifascismo. Abbiamo imparato l'esercizio della resistenza, la necessità di costruire comunità radicate nei territori, che siano capillari e che possano essere vigili e attente, che possano custodire i valori della resistenza. Certo, siamo convinte e convinti che le partigiane e i partigiani sarebbero estremamente severi nel giudicare ciò che accade oggi. Diventare grandi vuol dire anche assumersi pienamente l'importantissima eredità che ci lasciano. Ed è per questo che ora, che siamo maggiorenni, sentiamo ancora di più la responsabilità di essere antifasciste e antifascisti militanti, impegnati nel contrastare l'avanzata dei nuovi fascismi in tutte le loro forme e del capitalismo che toglie diritti e dignità. Oggi, in un mondo martoriato dalla guerra, mentre il genocidio in Palestina prosegue indisturbato, è giusto e doveroso scegliere da che parte stare. Senza indugio, bisogna essere partigiani e partigiane. Nella follia di questo tempo, il governo vara il DDL sicurezza, che limita l'esercizio fondamentale al dissenso e ci chiede, il 25 aprile, di essere un po' più sobri del solito, perché muore la massima carica dello Stato Pontificio. A noi, a cui non interessa disumanizzare le persone, interessa ribadire che le nostre identità sono laiche, anticlericali e che ci auspichiamo che l'istituzione clericale cessi di esistere assieme al patriarcato, di cui è parte. Quindi, volevamo dirvi, ma quale sobrietà? A proposito di sobrietà, le destre europee hanno deciso di fare un bel meeting a Milano il 17 maggio. Abbiamo deciso, con ben poca sobrietà, di costruire una giornata di mobilitazioni per contrastare il Remigration Summit. Siamo felici quindi di invitarvi tutte e tutti il 17 maggio. A breve daremo maggiori informazioni. Eccoci qui, cresciuti, con qualche cicatrice sul cuore che ci ricorda di continuare sulla strada aperta 80 anni fa. Felici, ebri e incredibilmente innamorati di quella cosa bellissima che si chiama resistenza. Buon 25 aprile! Grazie a tutti! Eh? Eccoci ragazze, grazie, momento scoppiettante. Partigiane, ci siamo? È il momento del rito collettivo che permetterà anche di cambiare il palco, ecco, molto bene. Noi adesso canteremo e danzeremo insieme un inno di speranza, un inno di rivendicazione, ma anche un monito, un invito all'azione collettiva e, perché no, anche una domanda. Ascolta, io credo che tutto quello che sogniamo possa essere realizzato attraverso la nostra unione. Noi abbiamo il potere di far girare il mondo, noi abbiamo il potere di invertire la rivoluzione terrestre. Le persone hanno il potere, people have the power, così canta la Patti. Ecco, nella tradizione delle Ninas io adesso vi passo una coreografia didascalica, così noi possiamo svolgere insieme il rito. È molto semplice, ci concentriamo sulla parte clou della canzone. Allora, faccio dei gesti, voi dovete ripeterli, se possiamo avere della luce sul pubblico, grazie. Allora, il primo gesto è questo. Siamo noi che abbiamo il potere, bravi, rivendichiamo lo spazio, molto bene, certo. People have the power, molto bene, certo, il potere dell'individuo che diventa collettivo. Qui si insinua un dubbio, punto di domanda, people have the power, perché a volte non sembrerebbe. Il dubbio se ne va, ma certo abbiamo il potere delle nostre idee, del coraggio per metterle in atto. Basta, è fatto. Semplice, questo è il rito. Ora voi potete declinarlo come volete, se siete molto dubbiosi ripetete questo gesto, se no non fatelo neanche. Siamo pronte, vai cara! Straordinarie. Il mito si è compiuto. Un applauso a Demetra per la prima volta. Buonasera. Sul palco di Pocca. Demetra, grazie, delle Ninas Drag Queen. Molto bene. Evviva la sobrietà. La sobrietà incarnata. Molto bene, molto bene. Grazie, anch'io, chiunque tu sia. Molto bene, ragazze, ragazze. Allora, adesso... dopo X Factor. Esatto. Dopo l'Alcatraz. Dopo Vinicio Capossela, finalmente sono pronti per questo palco. Demetra, devi farti un po' più in là perché sì, dobbiamo fare spazio ai giovani. Tu conosci anche le loro mamme. Ma certo, ciao Cristina, ciao Laura, la Torelli, Vito! Allora, l'ultima ruota del Caravan Tour sta per partire. Sono milanesissimi, il loro Gypsy Jazz ci farà sobriamente ballare. Demetra, cosa fai quando ti prendi bene, quando ti gasi? Io urlo, tutti sul Caravan! I Patagarri! Oh sì! Oh sì! Che presentazione incredibile, signori, signore e signori, buon 25 aprile a tutti e a tutte. E oggi vogliamo farvi sentire un po' di musica, un po' di storielle che piacciono molto ai Patagarri. E la prima canzone, signori miei, la prima canzone è un furto. Abbiamo rubato gli accordi e la melodia a una vecchissima canzone russa che si chiama Ocicornie, che vuol dire occhi neri per chi non sa il russo, e abbiamo deciso di prendere questa armonia, questa melodia, scriverci un testo e dire che bam, è la nuova canzone dei Patagarri. Quindi viva i furti nella musica e anche non nella musica. Occhi neri, occhi neri, ci vedo all'abisso, non mi reggo in piedi. Occhi neri, occhi neri, occhi neri, talmente belli non sembrano veri. Occhi neri, occhi neri, occhi neri, non parlo di pugni o di dolce, begli occhi azzurri. Occhi neri per tutti, sì. Occhi neri, occhi neri, occhi neri, troviamone tanti, sbattiamo i bicchieri. Occhi neri, occhi neri, occhi neri, talmente belli non sembrano veri. Occhi neri, occhi neri, occhi neri, non parlo di pugni o di dolce, begli occhi azzurri. Occhi neri per tutti e vai e wow. Che scuri come certi fumi buoni o come quel gatto che tanto volevo. Cosa succede dove non arriva luce dai lampioni? Mi ricorderai i tuoi occhi tutto questo nero. Mi ricorderai i tuoi occhi tutto questo cielo. Gli amari che mi bevo, fondi di bottiglia, scarpe delle guardie, rondelli di querizia. Nero come il martedì, come la mia lista. Occhi neri come i soldi, il lavoro, la rabbia, la fame. Cosa qui è, mi voleva tornare. Occhi neri come musica, canna di pistola come hooligans. Occhi neri come i miei pensieri. T'ho cercata ieri però tu non c'eri. Solamente occhi neri, solamente occhi neri e vai e wow. Occhi neri, occhi neri, occhi neri, non parlo di pugni o di dolce, begli occhi azzurri. Occhi neri per tutti, sì. occhi neri, occhi neri, troviamo ne tanti, sbattiamo i bicchieri. Occhi neri, occhi neri, occhi neri, talmente belli non sembrano veri. Occhi neri, occhi neri, occhi neri, non parlo di pugni o di dolce, ma gli occhi azzurri. Occhi neri per tutti. Sotto sto signorotto si fa vanto del santo attaccato sul cruscotto, non ha capito che sono disposto a stare sotto solamente quando voto. Tu torna al tuo paese, sei diverso, impossibile, vengo dall'universo, la rotta aperta, che vuoi che ti dica, tu sei nato qui perché qui ti ha partorito una figlia. E che saresti migliore, fammi il favore compare, non c'è affare che tu possa meritare, sei confinato ma nel tuo stato mentale, sono lunatico e pratico dove cazzo mi pare. Non sono nero, non sono bianco, non sono attivo e no, non sono stanco. Non provengo da nazione alcuna, io sì, io vengo dalla luna. Non sono sano, non sono pazzo, non sono vero e no, non sono falso. Non ti porto gliela né fortuna, io sì ti porto sulla luna. How I feel, sun in the sky, you know how I feel, breathe, breathe on me, you know how I feel, it's a new dawn, new day, new life for me, and I'm feeling good, I'm feeling good, oh yes I'm feeling good, yes I'm feeling good, oh yes I'm feeling, oh yes I'm feeling, oh yes I'm feeling so good. Oh yeah, vogliamo farvi sentire qualche traccia che faremo nel nostro futuro disco che uscirà presto. Il diavolo, signori, la prossima canzone parla del diavolo, e visto che è appena morto il papa mi pare che cade a fagiolo. Arturo, prego. Thank you. fatti sono, non esagero, che hanno stretto la mano con il diavolo. Oh, quanti sono, non mi immagino, che hanno stretto la mano proprio a lui. C'è quello che l'ha fatto per denaro, quello per dovere, l'altro era innamorato. C'è quello che voleva un talento straordinario e quello che pensava fosse un suo amico caro. Oh, salvami tu, io non so riconoscerlo, so che feste elegante, che sorride sempre tu. Salvami tu, io non so riconoscerlo, verrà a prendermi stanotte. Se sei tu, salvami su, io non so riconoscerlo, so che feste elegante, che sorride sempre tu. Salvami tu, io non so riconoscerlo, verrà a prendermi stanotte. Sto al crocevia, di mano vuole stringere la mia. Con quella 24 ore e occhiali scuri, pure se non splende il sole, di certo ti propone un bel contratto. Non dovremo più suonare sull'asfalto. Lui in cambio ha detto che si prende tutto quanto. Io credo solo ci sia un modo per fermarlo. Oh, salvami tu, io non so riconoscerlo, so che veste elegante, che sorride sempre tu. Salvami tu, io non so riconoscerlo, verrà a prendermi stanotte. Se sei tu, salvami tu. Oh sì, oh sì. Allora, il prossimo brano ce lo dirà Pino. Io non li so. Qual è il prossimo brano, Arturo? Franco mi ha fatto una ballata. Allora, il prossimo brano, signori, ci viene l'ispirazione da una canzone molto famosa di Guccini, La Locomotiva, tutti conoscono. Chi non conosce La Locomotiva? Io ho sempre sentito quella canzone bellissima, ma c'è una cosa che non va in quella canzone. Che lui non riesce a schiantare il treno contro il treno dei ricchi. Non ce la fa. E quindi noi abbiamo scritto una canzone su un camionista. Perché con un camion non ci sono binari morti in cui possono deragliarti. E quindi, signori, il camionista per voi. Camionista odia guidare il suo mezzo, ma lo porta così bene che se è meglio se stai attento. Il camionista odia guidare il suo mezzo, ma lo porta così bene che se è un piacere vederlo. Gli prudono le mani a pensare a quanto poco ha guadagnato e quanto tempo che ci ha perso. Il camionista sul suo mezzo a spostare tonnellate non sente sindacati, non sente neanche sua madre. Il male che c'è dentro non si potrà rimorchiare. 20 anni di invidia su un trasporto eccezionale, 20 anni di invidia su un trasporto eccezionale. Agite il rosso in faccia al toro, non lo nobilita il tuo cazzo di lavoro. Qua i capoccia non lo sanno a quanto pesa l'ultima ruota del carrozze. Il camionista odia guidare il suo mezzo, ma lo porta così bene che stai meglio se stai attento te. Hey. Quando i suoi fanali videro il rosso di quel giovane in Ferrari, disse io devo calmarmi. Quando i suoi fanali videro il rosso di quel giovane in Ferrari, non poteva che schiantarsi. Lui sta bene, non dovete preoccuparvi, ha un po' mancato solo la parte davanti. Lui sta bene, non dovete preoccuparvi, non possono bloccare i mezzi più pesanti. Se il camionista odia guidare il suo mezzo, ma lo porta così bene che se è meglio te stai attento. Il camionista odia guidare il suo mezzo, ma lo porta così bene che se è un piacere vederlo. Il camionista odia guidare il suo mezzo, ma lo porta bene sui sentieri di cemento. Se il camionista odia guidare il suo mezzo, ma lo porta così bene, lo porta così bene, lo porta così bene, lo porta così bene. Yes, camionista. Anche questo brano potete trovarlo nel nostro futuro disco. Adesso un brano che parla d'amore, finalmente. Cazzo. Aprile ancora! Cazzo sì! Oh yeah! Oh yeah! Oh, ho capito che pezzo è questo! Allora, il prossimo brano, signori, parla di quella cosa che accade quando dormiamo, signori. sogniamo e della figata del sognare, soprattutto nel fatto che questa cosa è condivisa da tutti. Non importa chi tu sia, non importa cosa hai fatto, da dove vieni, tutti i signori sognano. Tutti sognano. Devo prendere la tromba. Che cosa sognano lo sbirro pure il ladro? Cosa sogna tua madre? E tu cosa hai sognato? Chissà che cosa sogna Roberto Saviano, Filippo Turetta o Messina Denaro? Cosa sogna il terrorista prima dell'attentato? Cosa sogna il sobrio? Cosa l'ubriaco? Chissà se sono più belli i sogni dei registi. Chissà se i fascisti sognano il contrario. Non hanno peso e pesano, nemmeno forza muovono. Chissà da dove vengono, chissà dove ci portano, oh yeah. Sognami, non c'è bisogno di rispondermi. Ti prego solamente sognami. E se da svegli siamo lontani, non c'è bisogno di muoverci, sognami. In un castello come i nobili, in una casa senza mobili. Ti prego solamente sognami. Zitto e dormi, che dentro quelli sei capace pure di volare. Hai così fame che vuoi anche l'oro dei sogni, ma sarà meglio che ti rimetti a scavare. Quindi adesso zitto e dormi, che dentro quelli sei capace solo di volare. Hai così fame che vuoi anche l'oro dei sogni, ma sarà meglio che ti rimetti a dormire. Ti prego solo sognami, non c'è bisogno di rispondermi. Ti prego solamente sognami. E se da svegli siamo lontani, non c'è bisogno di muoverci, sognami. In un castello come i nobili, in una casa senza mobili. E se da svegli siamo lontani, non c'è bisogno di niente di più. Yes! Yes! I sogni. Oh. Allora, noi Patagari andiamo matti per le storie. Il prossimo brano, signori, è dedicato a tutti gli spacciatori che, signori miei, nonostante tutto offrono un servizio non indifferente al nostro paese, senza pensione, senza le ferie, signori, gli spacciatori, trattiamoli bene e speriamo che loro trattino altrettanto bene noi. Yes. Una piccola città di provincia, una piccola scuola, qui la storia comincia. Giovanni Willy vende cioccolatini a compagni e vicini per alzare due dindi. Meglio non farsi vedere. Meno di un anno e passa a tavolette intere, poi dolcetti d'ogni tipo. Willy portali dovunque, con le tasche piene, con i ganci giusti, guadagna più di sua madre, che passa le giornate a farsi il culo dentro un centro commerciale. Guadagna più di suo padre, che passa le giornate a fare l'impiegato comunale. Se... Oh Willy, dici quanti soldi hai nel tuo armadio, Willy? Quanti soldi hai? Daga daga daga daga da, Willy portali per tutti. Daga daga daga daga da, Willy con le tasche piene, Willy con i ganci giusti. Daga daga daga daga da, Willy ne ha per tutti i gusti. E daga daga daga daga da, Willy con le tasche piene. Un palumpa se la girano portando il cioccolato che Willy ha impacchettato. I conti sul diario, c'è una fabbrica dentro il suo scantinato. I soldi nella scatola, da scarpe nell'armadio. Tutto andava bene finché non l'hanno beccato. Le volanti arrivano sempre in orario. C'ha i ganci giusti ma stavolta ha sbagliato. Per questo poi l'hanno arrestato. E cosa farà sua madre? Rimarrà a disperarsi dentro al centro commerciale. E cosa farà suo padre? Io penso proprio niente, perché fa l'impiegato comunale. Se daga daga daga daga da, Willy portali per tutti. E daga daga daga daga da, Willy con le tasche piene, Willy con i ganci giusti. Daga daga daga daga da, Willy ne ha per tutti i gusti. E città di provincia, una piccola scuola, la storia ricomincia. Giovane Willy vende cioccolatini a compagni e vicini per alzare due dindi. Oh yes, sì! Gran figata essere qua, cazzo! Oh, oh, oh, il prossimo brano è il colmo delle storie, signori. È il colmo delle storie. Allora, è una storia molto semplice. Ci sono tre personaggi in questa storia, facile da ricordare. Il protagonista assoluto, signori, il protagonista assoluto è un pollo, ok? Un pollo arrosto con contorno di patate. Il secondo personaggio di questa storia è una vecchia sciura milanese. Una vecchia sciura milanese molto ricca che non dà mai, mai una moneta al nostro terzo personaggio. Il vecchio ubriacone che chiede sempre l'elemosina ai bordi della stradina. E la storia è questa, signori. Vi racconterò la storia del balordo che è finito in galera per un pollo. Per un pollo! Vi racconterò la storia del balordo che è finito in galera per un pollo. Per la strada camminava quel balordo lì, avvinazzato, passo storto e naso rosso, sì. Nella piazza tutti quanti lo conoscono, gli lascian soldi quando mostra loro le vene del polso. Ma lei mai, mai, mai, mai, una moneta non gliela lasciava mai. Diceva mai, oh mai, una moneta non me la lasciava mai. Vai giù! Che poi quel benedetto giorno lei fuori al ristorante, lui fuori perché sbronzo, ma la vide con nel piatto quel bel pollo. Potete immaginare quello che è successo dopo? Lui chiese una moneta, lei distolse lo sguardo, lei allora prese il pollo ed incominciò a mangiarlo. Perché mai, mai, mai, mai, lei una moneta non gliela lasciava mai. Diceva mai, oh mai, una moneta non gliela lasciava mai. E mai, mai, mai, mai, una moneta non gliela lasciava mai. Diceva mai, oh mai, una moneta non me la lasciava mai. Uno sbirro lo afferrò per il cappotto, che ci sono poche regole in sto mondo. Sai, le cose cadono sempre verso il basso. E alla moglie del ministro non si può rubare il pollo, perché mai, mai, mai, mai, lei una moneta non gliela lasciava mai. Mai, oh mai, una moneta non gliela lasciava mai. Yes! Lasciate sempre le monete, signori. Se non volete che vi rubino il pollo. St. James, al prossimo, signori, è una marcia funebre per voi, per stare un po' allegri. Una bella marcia funebre, e sulle mani, yeah! E allora, è una canzone vecchissima, quindi, insomma, onoriamola bene. St. James Infirmary, ci proveremo. Speravate di ballare. Thank you. St. James Infirmary. And so my baby there, she was stretched out on a long white table. So cold, so sweet, so fair. Oh, let her go, oh, God bless her. Wherever she or maybe, she may look this wide world over, she can never find a sweet man like me. Questo pezzo tra 2 anni compie 100 anni e voi lo state ancora ballando, cazzo sì! Che figata la musica! Oh, allora, visto che vogliamo proprio rompervi il cazzo, adesso facciamo l'unica e inimitabile hit estiva del mondo. Del mondo. E se ne avete le sigarette, accendetele, anch'io mi accendo una sigaretta. Don't you spread your wings and you will take to the sky, to the sky. But till that morning, you ain't nothing can harm you. Un bel applauso per Arturo, che è lì dietro, non lo vedete, ma se l'è meritato. Questi brani così vecchi, cazzo, Patagarri, davvero. Che scelta. Oh, vogliono tutti fumare adesso, anche il chitarrista. Un bel applauso per Dani, il chitarrista che vuole fumare, e anche per Pino, perché anche lui vuole fumare tantissimo. Allora, il prossimo brano è Havana Gila. Orca boia. Allora, abbiamo sempre suonato questo brano non sapendo nulla a riguardo, fino a quando una signora è venuta e ci ha detto: ma andatevi a vedere la storia di Havana Gila, perché non so se è il caso di suonarla in questo periodo. E allora, la storia di Havana Gila è molto interessante, perché in pratica quando gli inglesi hanno vinto in territorio palestinese alla fine della prima guerra mondiale, hanno scritto questa bellissima canzone per celebrare quella vittoria, per celebrare l'inizio delle colonie, la conferma, diciamo, la legittimazione delle prime colonie di ebrei in Palestina. E allora l'unico modo per continuare a suonare Havana Gila è dire due cose: Palestina libera e Netanyahu boia! Havana Gila! Oh sì, un po' di casino adesso per Giovanni, per... No. Egyptianella! Allora il prossimo brano è un altro di quelli vecchissimi che piacciono solo e soltanto ai patagari, signori. E allora racconta anche una piccola storia, quindi si unisce il contare le storie con le vecchie canzoni. Allora racconta la storia di una donna. È una canzone vecchissima, come abbiamo già detto, primi del Novecento, eh. Tu lo sapevi? Lo sapevi, Dani? No, non lo sapeva. Racconta la storia di una donna molto, molto, molto, molto, molto, molto. molto, molto, molto, molto, molto, molto grassa, che viveva negli Stati Uniti d'America. E proprio lì, signori miei, a causa della sua stazza e del suo peso, non riusciva a trovare l'amore fin con giorno. Un giorno non si trasferì in Egitto. Lì e lì tutti gli uomini erano attratti dalle sue forme. Questo, signori, serve a ricordarci che molto spesso non siamo noi a essere il problema, ma le persone che abbiamo attorno, cazzo. If you're the girl, look at me and check that she make you think of a nervous neck they're speaking of. Egyptian Ella, she weighs 220, but it's okay. They like can't plant it that way under. She has the love of every fella. And when she start to do her dance by the river Nile, the boy I'll take their old sweetheart and jump to the crocodile. Every shaking audience jump and yell, she's a man. How they love Egyptian Ella. Shake that she make you think of a nervous neck girl speaking of Egyptian Ella. She went to 20 but it's okay. Then I can't plant it that way or there. She has the love of every bella. And when she start to do her dance by the river Nile, the boy I'll take her old sweetheart and turn to the crocodile. Every shake in the audience jump and yell, she's immense. How they love Egyptian Ella. Oh yes, il prossimo è un altro. Oh, allora, cos'altro c'è? Oh, il prossimo sarà il nostro ultimo brano, signori. E faremo un brano che parla di un gruppo di rapinatori. Ci piace dedicare le canzoni ai rapinatori. Allora, è un gruppo di rapinatori, signori, che qua a Milano, alle ore 7:30 del mattino, signori miei, hanno svuotato una banca, signori. Adesso vi spiego come hanno fatto, così se volete lo fate anche voi, perché è un'idea davvero geniale. Questi pazzi hanno preso una casa in affitto in pieno centro, ok? Hanno fatto un largo buco nel muro e sono scesi giù nelle fogne, dove hanno strisciato e sono arrivati fino al cavo della banca, dove scavando ancora sono entrati e sono usciti con 1.200.000 euro. 1.200.000. La cosa più interessante è che uno di questi 3 anni prima era stato arrestato perché rubava motorini. Gran carriera, ragazzo, esatto, esatto. Vogliamo dedicargli questo pezzo sperando se la passino bene. E il brano fa più o meno così. Pensa alle faccia quando il capo gliel'ha detto. Svuoteremo una banca a Milano in pieno centro. Sarà mattina presto, il pazzo dice che sarà mattina presto. Passeremo nel fottuto pavimento, dritti delle fogne, tranquilli con le mappe e tutto il resto. Voglio tutto quello che mi hanno promesso e lo voglio adesso. Pensa alle facce quando il capo gliel'ha detto. Svuoteremo una banca a Milano in pieno centro. Sarà mattina presto, il pazzo dice che sarà mattina presto. Passeremo nel fottuto pavimento, dritti nelle fogne, tranquilli con le mappe e tutto il resto. Voglio tutto quello che mi hanno promesso e lo voglio adesso, vai. E levano mattone su mattone per arrivare a loro, per non svegliare il mondo attorno a loro. Quelli cazzo sono artisti, mica gente piena d'odio. Il direttore della banca si becca botte in faccia, adesso sputa i codici. Escono come sono entrati, ma con più di un milione nelle borse da ginnastica, ti immagini. Alle facce quando il capo gliel'ha detto. Svuoteremo una banca a Milano in pieno centro. Sarà mattina presto, il pazzo dice che sarà mattina presto. Passeremo nel fottuto pavimento, dritti nelle fogne, tranquilli con le mappe e tutto il resto. Voglio tutto quello che mi hanno promesso, lo voglio adesso. Forte, tutti ci siamo. Grazie Pata Garri, aspettate, grandi aspettate. Pata, no raghi, Suso, grandi Pata, faremo un pezzo che è mancato stasera, ma che ci vuole proprio, cazzo. Grazie ragazze, grazie, grazie cara, cara. Brava, vedi. Ah, dove mi metto? Vabbè. Salve. Mi metto qui, vado bene, cara. E infatti, è che non la fanno. Momento. Thank you. lontano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via. E se io muoio, e se io muoio, da partigiano, partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. E se io muoio, da partigiano, e tu mi devi seppellir, seppellir, lassù in montagna. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. I Patagarri, grazie! I Patagarrissimi! Grazie! Ora... Resistenza! Oh, oh, oh. E grazie ai tecnici e alle tecniche! Un applauso! Grazie. Va bene ragazze, siamo quasi arrivate alla fine, quasi, quasi arrivate alla fine. Eh sì, sono i momenti, si è fatta una certa, sono i momenti di... Ma non abbiamo ancora raggiunto quel momento, ragazze, state ancora qua. Sì, anche perché comunque domani qua c'è tutta una giornata a partire dalle 11 dedicata allo sport popolare. E con lo zampino degli Zammini, ovviamente grazie a Zam, in particolare, mentre domenica invece uno spettacolo, si continua con partigiani in ogni quartiere con uno spettacolo al Barrios. Ma, e poi ma... tu, Demetra, vabbè, un applauso a Demetra. Grazie, grazie ragazzi, è stato molto bello essere qui, io faccio parte di una compagnia, Nina's Drag Queens, saremo in scena a giugno all'Elfo, a maggio, giugno e luglio in città con le nostre passeggiate queer. Se volete saperne di più, www.ninasdragqueens.org. Grazie, certo, per i più aggregativi. Sempre per il tema sobrietà.org. Vabbè, guarda, anzi è già qua sul palco. È già pronta. Una rossa come te. Una rossa come me, un DJ, una DJ resistente. Esatto, sta per cominciare il DJ resistente con la nostra DJ del cuore. Noi vi ringraziamo e vi salutiamo così con la musica di Missy Red. Ancora grazie, grazie, grazie per essere stati con noi. Ciao partigiane! Grazie, grazie Piace, grazie, grazie a Paola Piacentini, grazie mille. Grazie Demetra, grazie Lenina, grazie al collettivo di POC. Ci sei? Proviamo? Quasi, attesa. Quasi. Proviamo. Sta mandando. La sta mandando, ma non la si. Eccola che... Grazie! Grazie! Stand up for your right. Get up, stand up. Anyway, we see them, we are bang pan another one. Boss up 4-5 Nanko one Remington. Boy, this man a Kellington. Bad man, you know where vibes can done. Vibes can done, we kill a sound wife a fun. Big bad man from outer England. Bassline drop a teddy. Nobody but badadan, bad from me bad. Where you get your badda from? Thing where me get? Coulda come from Afghanistan. They no want see this cross make me up in my hand. But badda man, you know me vibes can done. Lyrics them a fire like a bullet from a gun. Big badda man from outer England. When me lyrics start fire, watch a song why run. Yo, walk with the rapper pam pam. From a guy this day program, shot a slam slam. Them said I'm a bad man, me a fi hawk. Which one? When we a fire shot, pull pin and fling bomb. Them dead be a fi trample them like kids. Dogs pull up on your foot and none of them no sing. Some balaclava pan face, matic in a hand. When I have time for waste, with the rapper pam pam, shot a slam me badder than. Badadan, badadan, badadan. Badadan, badadan, badadan. Like a slave to a trend. Nothing they can say and nothing they can do. It's no problem for me, but it's a problem for you. No. trap bank, got a trap phone. I got P's and M's and K's and O's. They're illiterate with letters, so I'm letting niggas know. Used to give them high fives, now it's just a middle finger. Diamonds on my patty, do the bogo when I linger. They think I'm a rapper, I think I'm a singer. Catch me in the cut, I treat the tourists like a dinger. Get you southern fried, I'm a south boy, on some south shit. This is Jesus haters, this ain't all that fucking house shit. I score a goal, and I do my dance, I beat a crowd shit. Heard them brothers wanna do me something, but I doubt it. Do me something then, do me something if you're glad. My mother calls me mad, but I think I'm Jack the Lad. Tell us what you're working with, don't tell us what you had. I need to start my sentences, I'm sorry, may I add? You ain't got no said you got the mash, but you never let it squeeze. My head's hot, my wrist on freeze. I keep a little satin for you pussy MCs. Uh-oh, who's on what? Don't tell my brothers, cause I'll spin the whole block. Will we bang everything you got? Tell them little pussies that we take the whole lot. You ain't got no backbone. Check it out now. enter in the dance, plug it in and we begin. Crowd up in the center, they watch me the rhythm. Watch the way we drop it in a mix time. Rise and amplify it, man, we come in with this wing. Just following the pattern, naturally harmonizing. Climb into position, we synchronize it. Life from out of ghetto, we maximize it. Song of the groove, I'm under, we super styling. Enter in the dance, plug it in and we begin. Crowd up in the center, they watch me the rhythm. Watch the way we drop it in a mix time. Rise and amplify it, super styling. Can you feel the pressure to someone? Sometimes through the day and through the night. Sometimes you feel the pressure to someone. It's for your spirit and your mind. Now we drop it from the up on the low. One time lyrics, they must stick on your mouth. Pop a baseline, I'm up, up, I'm provide. My MC super, I got that one divine. Professional ganja smoker says they are one of the honor. We love gonna hurt me, stand. No, no, no. I wouldn't do that. Run for them life. When I step into the jungle, say they wanna group up. They better move up, never gonna win a Royal Rumble. But when I come through, you know what I love to. I send shots for your team and leader. I make a witness decide to vacate. The war's getting sweet just like a Ribena. Yo, listen, yeah that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Yo, listen, yeah that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Fighting for love, one fi be gangsters, fighting without no. But what da da da da da. 2015, they get to get in hotter. Nobody can get a job, so them a turn drug shotter. Them a sell drugs to the people and I see what them matter. Them not talk about food when them got Big Mac. Them not talk about football when them go and take shotter. Them a bust shot in the streets and them a bust in the block. See me, say hard life, me no bound that. Yes, me know about scraping from the bottom of the bottle. Me know how it feels to lose your mother and your brother. Well, say coming in now, say with the bass and fire. Say I'm on Charlie P, me never go and retire. Me have to stop the youth, they squeeze the guns and fire. One fit here, them in the dance, where the vibes them higher. Now all around the world, say Charlie P on flyer. Call me the original rhythm rider. Say sweet Cali weed in a the chalwa. You say yes, me take a draw. Aya. Out in the street, they call it murder. Jam rock, jump where the thugs and camp at. 2 pound a weed in a van back. It in a your handbag, your knapsack, it in a your backpack. The smell of your girlfriend contact. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas, bedtime stories, and pose like them named Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals are not back to. He talks them with the way them got to. And won't think twice to shot to. Don't make them spot you unless you carry guns a lot to. A beer tough thing come at you when trench town man stop, laugh and block off traffic. Then them we learn pop off and them start drop it. File long and it happy trap it. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get dropped like a bad habit. Son of a da post off if you're down top it. Rastafari stands alone. This a survival story, true ghetto story. This is my story, real ghetto story. Hey, I remember those days when hell was my home. When me and mama bed was a big piece of foam. And me never like bathe and my ear never comb. When mama gonna work me, go street or roam. I remember when Danny them get my snow cone. And make him lick a bread at them, kick up Jerome. I remember when we visit them with pure big stone. And the boy that nip a pot, something we're full chrome. I remember when we run, a that I get him knee blown. And my best friend Richie get doing I'm down. I remember Sunday Avenue turning a war zone. And Mikey mother fly mode, cause she get alone. Hey, Miss Fatty Fatty, you a murder. Millie love it the way you twist and a turn up. Hotter than lava, my girl, you a burn up. A nice a gal you be never ever heard of. Hey, Miss Fatty Fatty, you a murder. Millie love it the way you twist and a turn up. Hotter than lava, my girl, you a burn up. You a burn up. And so me go so then the kitty them pretty, so the dog them a bark. Love it the way you whine or you walk and attack. So when you take body like a rocket, it a spark. Dicky is a hit on the girl, them top charts. Hey, white, black, brown, slim or brown, me not care. No matter the time of day, them fi get slay anywhere. Me no rich, but if a silent man a millionaire. Girl, if you have a tidy, fling it in here. Me get, hey, Miss Fatty Fatty, you a murder. Millie love it the way you twist and I turn up. I thought I'd love a my girl, you a burn up. A nice a gal, you me never ever heard of. Heard of, heard of, heard of. In the place. Them want to wind them ways. Tell them forward in the ace. Put a bang bang embrace, yeah. Early money low, she get it good from she rise. But put it on so good and make she shake all she ties. Smile upon her face, me know she pleased with this eye. Coming around to me, gal, I roll out them eyes. Drip off of me body, yeah. Oh, you're full of chatter, you can keep up with me energy. What a epic night of it, made it now your memory. Little bubble up, it treat it like a felony. What you gonna do when there is nobody that do it better than this reggae guy? I can do this every morning, every evening. Have you screaming straight back to sunrise? Just get in a deposition and boss one. Never you forget this is your mission. If you take a girl, man, you have it in a condition. And boss one, take a sip and lose your inhibition. Cause when you dip in it, you start my ignition. See you swinging it and this is my ambition. We give you the legit love, make you turn and twist. And me give you the speed, make you balance and grip on. Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Stay down there, girl. Stay down there. My time to wind up. Let them know that nobody can stop me shine. Caribbean girl, they never clean and refine. Girl, just make them know that you are one of a kind. Coffee pipe, yeah. We did it. Coffee pipe, yeah. We did it. Coffee pipe, yeah. We did best. Give me the light, yeah. And we turn it up every time. And we pass it up, watch it, I watch it. Ha! Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad. Anyway, them see me via me gun, them a chat. Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad. Bussing up the place with me style. Bad, bad. What kind of thing that style where we fling back? Passion and the position, the girl them a fi bring that. Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad. Bussing up the place with me style. Bad, bad. Oi, this ain't no toy. Mash up the place, give the people joy. Love it when the girl them does a bubble pon it and them does a juggle pon it. Work it at me employ. Mashing up the party, mashing up the party. So me a fi roll out. They are with me shorty. Anytime we pass through the place is a blood clad vibe. We keep the party alive. Ha! Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad. Anyway, them see me via me gun, them a chat. Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad. Bussing up the place with me style. Bad, bad. What kind of thing that style where we fling back? Passion and the position, the girl them a fi bring that. Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad. Giovedì alle danze, ho preso il microfono e sono uscito dall'infanzia. Anche se non esce mai chi se fuma la ganja. Passami lo spliff che sto come Peter Pan. Bammeli bam bam. Ba ba ba ba ba. fatto i primi gol. Intanto io ingrassavo a forza di profiterol. Ormai pure in Italia solo ganja fatta indoor. E anno dopo anno in giro sempre più dancehall. Bambili bamba moriva l'EDD. Dopo tante chiacchiere il 2000 eccolo qui. Addio al buon cioccolato, solo tavole così. Tutto era cambiato, anche il mondo degli spliff. Bambili bam bam non invecchia mai, ti fuma l'erba. Non invecchia mai, ti fuma ganja. Questa è la speranza. Mi stoppia di buona la tua ganja weed. Tirate fuori le gange, perché c'è il grider che piange. Boom bad, dai. Più sulla ganja senza ritegno come bombale, ma detto che fa. Noi della ganja siamo original fan. Siamo della ganja già original falla. Che ganja buona, noi ci piace fumarla. Brucio la ganja senza ritegno come bombarle, ma detto che fa. Noi della ganja siamo original fan. Siamo della ganja già original falla. Perché al Vaticano a noi ci piace fumarla. Fumo l'analogica, quella digitale. Quella con le lampade, quella fatta sotto al sole. Dal bianco al violetto te prego dammi ogni colore. Basta che ci vedo la resina sul fiore. Tu dammi le cime te prego non me dalle sole. Non sono un pischello che va a scuola dalle sore. Non puoi classificarmi fumatore occasionale. Nel gioco della Wii dalla missione bornare. Ho fatto il primo chilun quando ero all'asilo. In classe si era tanti per cui prendevo un chilo. Facevo i bonghetti con le penne stilo. Pure la maestra una volta si è fatta un tiro. E brucio la ganja senza ritegno come bombarle, ma detto che fa. Noi della ganja siamo original fan. Siamo della ganja già original falla. Perché mo in Salento stiamo sempre a fumarla. Fumarla, brucio la ganja senza ritegno come bombarle. Fletes, los caras de nana, los caras de nada. Somos los patis pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo, la lengua ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosechas ni prende la mecha, ni ahí con tu cuerda no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para hacer blanducha, no se me confunda, buena capucha. Papagay, ¿cómo está? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Papagay, ¿cómo está? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave, escucha de clase. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno. Stanna kosciu bacala. Cazzo è caldo in mezzo all'ero. Vidamo con mamma. Fa, fa, fa, fa, fa, fa. Voglio se ta, ta, ta, ta, ta, ta. Mmm, tensione ca coscia. Mmm, tensione ca brucia. Mmm, ti piace la yes. Mmm, ti piace carnaus. Va fa mocco lo corno catino da chi da stramuto da carambrata. Da carambrata. Da carambrata. Da carambrata. Da cheda. Pinza tutta la mochiera stanna cosciu bacara. Cazzo è caldo in mezzo all'era vita mocco mamma. Pinza tutta la mochiera stanna cosciu bacara. Cazzo è caldo in mezzo all'era vita mocco mamma. The job.